Allora, ci siamo veramente. E avete visto che è apparsa la Venere, e la Venere biomeccanica, non a caso, perché siamo qua. Io sono Giulio Calella, Edizione Alegre, Alberto Prunetti, che è il direttore artistico del festival, Francesca Di Marco della SOMS Insorgiamo e Dario Salvetti per il collettivo di Fabbrica, che inauguriamo, diciamo, un piccolo miracolo che la Venere biomeccanica testimonia, e che è questo terzo festival di letteratura working class, un piccolo miracolo perché abbiamo considerato dei piccoli miracoli il successo delle prime due edizioni, perché è un festival unico nel suo genere, un festival totalmente senza sponsor, privo di finanziamenti, che si regge sul crowdfunding. Quest'anno addirittura 508 persone ci hanno permesso con il loro finanziamento di organizzare questo festival. Si regge su oltre 200-250 volontari e volontarie che hanno montato e garantiranno tutti i turni di questo festival. Un festival letterario che non si fa in un quartiere di una grande città, ma si fa in una zona appunto industriale, si fa in una fabbrica. Si fa insieme agli operai e gli operai di questa fabbrica in lotta, ed è appunto un festival che propone l'idea difficile, ambiziosa di fare la lotta di classe con i libri. Un piccolo miracolo, dicevo, il successo, ma è un grande miracolo, direi, un grande miracolo working class, che siamo ancora qua. L'anno scorso erano il giorno dell'inaugurazione, erano 1.000 giorni di presidio e assemblea permanente, quindi a occhio e croce, poi Dario mi correggerà precisamente sul conteggio, ma credo che siamo a 1.365 giorni di presidio permanente di fronte a questa fabbrica, di cui possiamo solo ringraziare gli operai e le operaie di CKN che hanno resistito finora. Noi siamo convinti che se il collettivo di fabbrica è riuscito a resistere così tanto, a essere ormai senza dubbio la lotta più lunga della storia del movimento operaio di questo paese e probabilmente non solo, è perché è riuscito, tra le altre cose, a rientrare nell'immaginario collettivo, a utilizzare i vari strumenti di narrazione, di arte, in qualche modo di essere in questo modo, se rientri nell'immaginario collettivo, sei più forte nel rivendicare i tuoi diritti. E sei più forte della stessa energia del tuo corpo per resistere. Questo che sono stati sicuramente in grado di fare, ed è il motivo per cui probabilmente siamo ancora qua dopo 1.365 giorni, sono ancora qua. C'è da dire, diciamo, che chi probabilmente ha preso più sul serio questa idea la forza della lotta di classe con i libri è l'attuale proprietà di CKN, diciamo, almeno se lo misuriamo con le reazioni alla vigilia del festival che ogni anno ci ritroviamo di fronte. Nella prima edizione del festival nel 2023, il giorno prima arrivarono delle lettere con minaccia di denuncia per chiunque varcava i cancelli di questa fabbrica, tanto da farci smontare e rimontare il festival. E uscì su tutti i giornali appunto la minaccia di denunce per un festival letterario. L'anno scorso, 3 giorni prima, ignoti, diciamo strani ignoti, hanno manomesso la cabina elettrica della fabbrica, praticamente lasciando la fabbrica senza elettricità e costringendoci l'anno scorso a fare il festival nel piazzale con dei generatori perché era impossibile da fare. Quest'anno, alla vigilia di questo festival, cioè ieri, esattamente ieri, sono arrivate la terza lettera di procedure di licenziamento collettivo per la terza volta, diciamo, in questi 1.365 giorni in cui arriva il licenziamento collettivo degli operai di questa fabbrica, dopo che le prime 2 volte erano stati annullati dal Tribunale per condotta antisindacale. Evidentemente questo prendere così sul serio la lotta di classe con i libri da parte della proprietà della CKN ci segnala quanto per le classi dominanti abbia un peso, forse più che per noi, o quantomeno gli danno più peso di quello che gli abbiamo dato noi, all'arma della narrazione nel conflitto di classe. uno dei successi, diciamo, un grande successo della lotta di classe dall'alto, delle vittorie delle classi dominanti negli ultimi decenni, infatti non è stato solo ridurre i diritti, ridurre i salari dei lavoratori e lavoratrici, le condizioni di lavoro, eccetera, ma è stato anche espellere dalla narrazione la classe, dalle narrazioni letterarie, dalle narrazioni giornalistiche, in cui la parola classe è diventata tabù, se non per riemergere ogni tanto come capro espiatorio per essere accusata di aver fatto vincere Trump o la Brexit, oppure, diciamo, nel migliore dei casi essere descritta in maniera vittimistica, come se soltanto la classe sconfitta potesse essere una categoria giornalistica o letteraria. La stessa idea di letteratura working class che noi come Edizione Alegre, con il lavoro di Alberto Prunetti, portiamo avanti da molti anni, è stata a lungo, diciamo così, negata come genere, come categoria letteraria. Se negli ultimi anni, grazie ai nostri festival, siamo riusciti a imporre anche nel dibattito culturale mainstream la letteratura working class come un genere letterario, è perché abbiamo incontrato la lotta della GKN, perché in fondo la letteratura working class è uno strumento della lotta, ma senza la lotta collettiva non ha la forza, l'energia per poter parlare, per farsi sentire. Non a caso, appunto, il festival ha seguito, diciamo così, l'evoluzione del festival ha seguito l'evoluzione della lotta. Noi il primo anno, lo slogan del primo anno era: la working class scrive la sua storia. In qualche modo la lotta della GKN ha rimesso sul campo politico, di dibattito, nella visibilità sociale, per la sua capacità anche di narrare la propria lotta, ha rimesso al centro la questione di classe e il conflitto di classe e la possibilità di fare una lotta e di farla a oltranza. Da quel festival, che è stata un po' la ripresa di parola, e aveva appunto lo slogan "la working class scrive la sua storia", e nel programma l'abbiamo dedicato soprattutto alle genealogie della letteratura working class, in qualche modo a riaffermare quello che è stata anche una storia che comunque in molti paesi nasceva già negli anni 30 del Novecento, quello della letteratura working class, che comunque ha attraversato anche gli anni 70 in questo paese. L'anno scorso ci siamo riappropriati appunto della letteratura come forma di lotta. Se nel primo anno, nel 2023, vi ricordate, la manifestazione della GKN non fu durante il festival, fu una settimana prima e poi facemmo il festival. L'anno scorso invece ci fu la manifestazione durante il festival, convocata appunto in realtà all'ultimo momento, proprio dopo che era stata tolta anche l'elettricità, dopo che ci avevano lasciato al buio in questa fabbrica. In qualche modo ci siamo riappropriati del presente, ci siamo riappropriati della possibilità di lottare con la letteratura, e non a caso lo slogan era "non siamo qui per intrattenervi". Quest'anno proviamo a guardare al futuro, alle prospettive della letteratura working class, e quindi nel programma che adesso Alberto descriverà più compiutamente guardiamo alle potenzialità che ha la letteratura working class, a come può in qualche modo irrompere, invadere il mondo delle belle lettere, come può invadere l'industria del libro, una filiera che è profondamente diseguale, ingiusta, in cui ci sono fenomeni di sfruttamento. È stato anche di queste settimane lo sciopero anche dei lavoratori della Feltrinelli, che avrete visto e seguito e che abbiamo anche incontrato, così come che mi sa che sono qua perché vedo che alzano la mano, e così come il lavoro difficile di tanti, e gli facciamo un applauso. Così come il lavoro difficile di tanti librai indipendenti, editori indipendenti che sono dentro una filiera di grande sfruttamento. E quindi è la letteratura working class è un modo per guardare la prospettiva, ma è anche un modo fortemente legato alla lotta di questa fabbrica che oggi, di fronte al alla terza procedura di licenziamento collettivo, chiede di reindustrializzare questa fabbrica, chiede la pubblica utilità. Faremo il corteo sabato perché questa fabbrica può essere presa in mano degli operai con un nuovo progetto di reindustrializzazione ecologica dal basso, e per questo lo slogan di questo festival, che guarda al futuro, riprende in realtà un motto del sindacato nordamericano degli IWW dei primi del Novecento, ed è lo slogan con cui iniziamo e che è scritto alle nostre spalle: noi saremo tutto. Allora, grazie. Appunto, io sono un po' l'assemblatore del programma. Ora, non solo, vorrei un po' spiegarlo, insomma, non solo illustrarlo, ma spiegare perché questo tipo di programma e qual è un po' il senso dell'operazione che stiamo provando a fare. Noi sostanzialmente con la letteratura working class proviamo a prenderci cura delle nostre storie, delle storie delle persone che non hanno capitale culturale, che non hanno privilegi di classe e che non trovano spazio tendenzialmente nell'industria del libro, nell'industria culturale, che sono spesso costrette a assorbire un immaginario che non fiorisce dalle proprie esistenze. Siamo colonizzati da un immaginario che non è con il nostro, dobbiamo adottarlo, adottiamo immaginari diversi quando leggiamo libri, quando guardiamo film, quando accediamo alle piattaforme culturali dello storytelling come Netflix, come Prime e così via. Le storie di classe operaia non trovano posto in questi contesti. E abbiamo provato piano piano appunto aprirci una strada con la collana di Alegre, poi abbiamo fatto questa operazione di convergenza culturale forte con il collettivo di Fabbrica e poi anche con la SOMS Insorgiamo e con l'ARCI, che sono diciamo poi i pilastri che hanno portato alla realizzazione di questa piccola istituzione della letteratura working class che sta cominciando in realtà a avere un impatto anche internazionale. Questa è una delle cose su cui in futuro dovremo anche continuare a lavorare. È un atto di cura. David Graeber, uno studioso nordamericano nato in una famiglia working class, lui stesso, figlio di una sindacalista che faceva l'operaia nel tessile e di un tipografo. Diceva che con l'immaginario le persone working class si prendono cura di se stesse e del proprio umore. E questa è un po' una cosa che noi sentiamo forte, il fatto di prenderci cura, di contribuire a prenderci cura dell'umore dei solidari e degli operai di questa lotta che sta durando ormai da 4 anni quasi, da quando li abbiamo sentiti dire in Piazza Santa Croce che loro stavano lì per costruire la propria storia, per raccontarla, per farla, ecco. Perché appunto il nostro non è uno storytelling, la nostra è qualcosa veramente di poetico, nel senso è una costruzione concreta, lavoriamo sull'immaginario per fare delle cose. E il simbolo proprio più materiale, più concreto di questo fare e di questa convergenza è in qualche maniera questo incontro e questo abbraccio fra una fabbrica e le persone che le vivono attorno e la comunità di contro a quell'immagine appunto recintata, no, della fabbrica come luogo di produzione. La nostra è un'idea aperta, una fabbrica porosa che produce non solo merci ma che produce anche cultura. Qualcuno dirà, beh, ma l'Olivetti di Ivrea, certo, provato a far incontrare letteratura e industria, però quello è bello perché l'aveva fatto un padrone illuminato e andava bene e lo insegnano all'università. Invece quello che proviamo qua a fare tutti insieme, a partire dall'attivismo degli operai, è qualcosa che non nasce dall'illuminazione di un padrone, anzi il padrone, questa illuminazione in questa fabbrica probabilmente non l'apprezza particolarmente, infatti siamo qui con 4 pannelli solari e la luce del sole, e sta a noi in qualche maniera fare questa convergenza fra fabbrica e letteratura e sta a noi dare un futuro a questa convergenza. Ecco, per questo parliamo di un futuro in cui probabilmente sempre peggio, ecco, sempre peggio microfono, continuerà ancora a parlare di lavoro. Questo molto spesso, no, ci dicono che siamo schiacciati. Prima dicevano la letteratura working class non esiste, ora dicono che è sempre schiacciata sul lavoro. Ci viene in soccorso Bertolt Brecht quando scriveva tanti tanti tanti anni in un altro secolo, che gli sfruttatori possono parlare di mille cose, però gli sfruttati parlano sempre di sfruttamento. E questa è la ragione per cui purtroppo noi siamo sempre, ci incarogniamo così a parlare continuamente di lavoro, perché purtroppo, magari anche per togliercelo di dosso questo lavoro, per trovare il tempo per scrivere le nostre storie. Oggi finalmente quest'anno abbiamo un libro in più nella collana. È un libro importante perché, per esempio, perché parla di ristorazione, no? Noi abbiamo tante storie, abbiamo quest'anno in collana abbiamo un libro scritto da un metalmeccanico e uno scritto da un cameriere. I metalmeccanici sono nella letteratura working class una categoria che comincia a essere abbastanza rappresentata. Il mondo della ristorazione fatica tantissimo a raccontarsi e io tra sguatteri e camerieri e cameriere ho in mente meno di una decina di opere e in compenso abbiamo un enorme storytelling neoliberista di chef stellati che ci caramellano le scatole con i loro programmi, no? Sulle piattaforme dei media, no? È un continuo roba è tossica non tanto per il colesterolo ma per il tipo di rappresentazione competitiva che offrono, no? Ma lo sguardo sullo sfruttamento, su quello che succede davvero dietro nel mondo sudicio, inquietante, avvilente, tossico, pieno di sostanze che dà dipendenza, che ti colonizza la vita, che ti rovina e ti ulcera il fegato, quel mondo lì non te lo racconta nessuno, dobbiamo purtroppo farlo da noi, ecco. Quindi questo è un altro tema dal punto di vista delle categorie. Ci mancano tantissimo il mondo della cura, le donne che lavorano nelle pulizie, negli alberghi, negli ospedali, e queste donne così importanti, per esempio, che sono ovunque nelle nostre case dove ci sono gli anziani, ma che non troviamo mai, la cui voce non riusciamo mai a sentire in qualche maniera, no? E quindi abbiamo ancora tanti tasselli, tanti spazi per avere davvero, per pensare davvero alla nostra, che questa narrativa possa includere anche queste voci. Dobbiamo, diciamo, nel festival abbiamo dato spazio a alcune linee di fuga, che alcune sono consolidate. Il racconto in prima persona è un classico ormai, viene dalla Francia, dal memoir, si fa tanto anche in Italia. È una forma espressiva in cui ci sono dei rischi, no? Il rischio è quello di non riuscire a fare quel passaggio che è fondamentale per fare la narrativa working class, in cui l'io diventa il noi, cioè tu non puoi fare lo storytelling dei fatti tuoi, cioè tu, se usi la prima persona, devi farti carico di riuscire a trovare un momento in cui l'io diventa noi, in cui dai questa dimensione collettiva, se no non è un racconto di classe. E il tema della conflittualità, anche questo è fondamentale, è una letteratura di classe operaia che non ha la lotta di classe, il germe della lotta è una letteratura sgonfia in qualche maniera, perché è una classe sgonfia, la classe operaia, se non è una classe conflittuale. Quindi è proprio il conflitto che fa sì che ci sia questo elemento attivo, questo lievito vivo dentro alle lotte e dentro alla narrativa. Ci sono alcune cose che non riguardano solo, diciamo, le forme espressive di questa corrente letteraria. Alcune sono quasi, in qualche maniera, hanno a che fare con la sociologia dell'industria del libro e con il tentativo di costruire delle piccole istituzioni, no? Una collana editoriale può essere una sorta di istituzione. I premi letterari, no? Ci sono tantissimi premi letterari, siamo un paese di premi e di festival, no? Festival fatti con gli sponsor delle banche, premi con cui si fa il whitewashing sostanzialmente di fondazioni, di banche, di aziende, no? Che in qualche maniera scaricano un po' d'IVA mettono un po' di tappeti rossi sul narcisismo degli scrittori middle class, e noi dovremmo star lì a prendere le bricioline che cadono dal tavolo dei padroni dell'editoria o a supplicare di entrare nel canone graffiando alla porta o meccagnolini. No, non è quello che dobbiamo fare. Dobbiamo trovare le nostre. Questo festival è una via consolidata per dare voce alla letteratura working class nel nostro paese. Dobbiamo sperare ci siano sempre più premi editoriali che possono fare in qualche maniera quello che chiamano lo scouting nella neolingua del marketing culturale, permettere anche a nuove voci di emergere. C'è un premio a Montelupo della biblioteca di Montelupo, uno della fondazione di Vittorio di area sindacale CGL. Dobbiamo lavorare molto sul tema dell'internazionalizzazione del festival. Ci abbiamo provato anche quest'anno con sempre più ospiti stranieri, dando l'interpretariato anche in tedesco e in inglese, e creando punti con paesi dove c'è una forte e consolidata letteratura working class, come nell'Europa del Nord. Dobbiamo sperare ci siano altri festival, esportare quello che ormai è diventato come il nostro, insomma, rilevante. E nel tentativo appunto di costruire questa reindustrializzata e dare un futuro alla fabbrica, nel piano industriale gli operai hanno fatto una mossa importantissima, cioè hanno inserito anche il progetto di un polo culturale working class che verrà poi presentato in chiusura del festival. Però ecco, si tratta appunto di quest'idea di una fabbrica che non produce solo merci, ma che produrrà anche cultura e immaginario di classe operaia, e proprio in questo progetto qui sta il futuro. Per concludere, ci sarà un futuro per la letteratura working class nel nostro paese se riusciremo a spingere, a sostenere la mobilitazione degli operai del collettivo di fabbrica, perché se non vincono loro perdiamo tutti veramente, e se vinciamo, vinciamo tutti assieme, perché l'io diventa il noi. Grazie. Si sente. Salve a tutte e a tutti. Allora, io intervengo per la SOMS, Insorgiamo, che è la PS che è nata a sostegno della lotta, qui all'inizio di questo festival che si chiama Noi Saremo Tutto. E la SOMS nasce nel 2022 e nasce nel momento in cui la proprietà sospende il pagamento degli stipendi alle lavoratrici e ai lavoratori GKN. Nasce come una APS, come un circolo ARCI, convenzionata con Fuori Mercato, con MAG, in grado di fare microcredito per sostenere gli operai, società operaia di mutuo soccorso, si richiama esplicitamente al mutualismo, alla storia del mutualismo dall'Ottocento a oggi. Un mutualismo appunto che per noi è alla base anche delle pratiche che vogliamo costruire. Diciamo che la SOMS nasce come il luogo associativo in cui si sigla il patto tra la fabbrica e il territorio che l'ha difesa. E con la SOMS quindi nasce uno sportello di mutualismo qui dentro, nasce il microcredito, si riorganizza la convergenza attraverso la SOMS, la convergenza culturale e la proposta culturale che la fabbrica ha sempre fatto. E nasce un direttivo dell'APS, come tutti i direttivi, che è il primo luogo in cui si incontrano per discutere e decidere operai e solidali insieme. La SOMS è, diciamo, già e non ancora, è già in qualche modo un pezzettino di fabbrica pubblica e socialmente integrata, e al tempo stesso ancora non lo è, ma ha il compito di contribuire a costruire la fabbrica pubblica e socialmente integrata. Cos'è oggi la SOMS dopo 3 anni quasi? È la domanda che ci facciamo a volte, che ci siamo fatti in questi mesi, perché ieri sono arrivate le lettere di licenziamento, qui tutto cambia veloce, e questo anno, dalla fine del festival dell'anno scorso a oggi, è stato un anno convulso. Siamo usciti dal festival, abbiamo organizzato un grosso corteo il 18 maggio per chiedere che la regione discutesse la proposta di legge sui consorzi pubblici. E siamo stati 70 giorni accampati, prima davanti alla regione, e di questi 70, 12 di sciopero della fame, sempre perché la regione faceva finta di non vedere questa proposta sul consorzio, e poi il concerto a luglio, e poi le giornate sulla giustizia climatica con Greta Thunberg a ottobre, e poi l'ultimatum a novembre, e poi un anno senza stipendi e la campagna di mutualismo Sopravvivere all'inverno. E in questi mesi convulsi così è stato difficile, a volte molto difficile, a volte anche quasi impossibile, mantenere degli spazi formali di confronto e discussione condivisa. E a volte operai e solidali abbiamo lavorato con una certa solitudine, diciamo, e quindi a volte abbiamo sbagliato, o a volte ci siamo arrabbiati, o a volte non abbiamo condiviso alcune decisioni che qualcun altro ha preso senza potersi confrontare. E lo sportello mutualistico ha fatto più fatica ad andare avanti in questa situazione di emergenza continua. e di palla provata a lanciare sempre più lontana ha fatto fatica a continuare a trovare uno spazio, anche perché ricordiamo che qui l'inverno è duro perché l'elettricità non c'è se non nel piccolo spazio del barcollo, e tutti gli spazi che avevamo prima per discutere, per riunirci, la saletta mutualismo, cadono nell'oscurità appena tramonta il sole alle 4 del pomeriggio, e il freddo è totale perché non si possono nemmeno accendere le stufette, i termoventilatori, e quindi la proprietà non è che non ci ha fatto male, anche come SOMS, certo che ci ha fatto male. E allora che cos'è la SOMS? Eppure la SOMS la vedete tutto intorno qui, intanto è il palco che abbiamo sotto i piedi e che è stato costruito, solidali operai insieme, è un palco modulare, spostabile e che è a disposizione, abbiamo intenzione di mettere a disposizione del movimento fiorentino. E ogni volantino che avete visto, ogni dépliant che avete visto nelle librerie, ogni manifesto che avete visto per Firenze e che è stato attaccato in questo periodo. E ogni volontario e volontaria che incontrerete in questi giorni, e sono quasi 300 le volontarie e volontari che in questi 3 giorni hanno dato la loro disponibilità. Sono tutte le persone e tutte le donne e gli uomini che decidono, rispetto alla vicenda di GKN, di non venire da spettatori agli eventi che vengono fatti, ma di contribuire, di dare un pezzo, di magari se non sentire un panel e fare un turno in mensa, di non sentirsi il concerto e stare al bar o di fare il servizio d'ordine, ma è anche la trasformazione che è avvenuta in questi anni nelle nostre vite private. E il personale politico è mai come oggi, dopo i femminicidi di questi giorni, questa frase la dico, la vorrei dire con forza, perché è la frase del movimento femminista, transfemminista. La fabbrica è la trasformazione che è avvenuta nelle nostre vite, di operai e solidali, di noi che abbiamo trovato in questa fabbrica un luogo, ma anche un punto sulla linea del tempo, lo dico sempre, in cui smettere di arretrare sui diritti e provare non solo a salvare questo luogo, a ridare il lavoro, che è l'obiettivo prioritario, ovviamente, ma anche a scrivere un futuro diverso, a creare le condizioni per smettere di andare avanti in questo mondo con distruzione, crisi climatica, guerra, consumo di suolo, arretramento dei diritti, appalti, morti sul lavoro, e invece di provare a costruire insieme una vita più bella. Allora sono le vite private di tutti noi che abbiamo cambiato tante frequentazioni. E sì, sono gli operai e i solidali che l'anno scorso, quando mi sono rotto una gamba, sono venuti tutte le mattine a fare i turni a casa mia perché non potevo stare da sole. Sono le persone, la Katia, la Milena, la Tamara, che vengono a passare il loro tempo qui per fare compagnia agli operai senza... ne ho dette 3, ma ne potrei dire molte di più. Sono le lasagne portate la domenica per sostenere gli operai in presidio. E sono... è l'ascolto che ci diamo. E sono tutte le persone nuove a cui mandiamo un messaggio, con cui parliamo, con cui ci confidiamo. E quindi siamo diversi, ma non divisi, come scriveva ieri il collettivo per l'arrivo della Venere biomeccanica, un altro atto di convergenza in fabbrica. E quindi cosa sarà la SOMS? O meglio, cosa potrebbe essere se davvero parte il consorzio e se davvero qui nasce una fabbrica pubblica e socialmente integrata, se qui nasce un polo culturale? Sarà, appunto, sarà una comunità... sarà una comunità, un pezzo di costruzione, un pezzo di argine a un momento storico molto difficile. Sarà un pezzo di costruzione per una vita più bella. Sarà tutto quello che abbiamo fatto: cultura, reindustrializzazione, sindacalismo, mutualismo, vertenze legali, tutto quello che è stato fatto, perché appunto saremo tutto. Grazie. Grazie a tutte e tutti della presenza, e ovviamente il primo ringraziamento va al presidio. Noi in questo momento siamo su un palco, siamo coloro che hanno l'onere e l'onore di aprire, di essere quelli più visibili, ma niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza un presidio che dal 9 luglio 2021, come dico sempre, attacca alle 6 di mattina, stacca alle 14, accoglie il turno delle 14 fino alle 22 e alle 22 arriva il turno di notte che stacca alle 6. E così, ininterrottamente, da quel 9 luglio 2021, è qualcosa che a volte anch'io stento a crederci. Spesso io sono quello che gira di più, che quindi magari è meno al presidio, e ogni volta vedere questo incessante stare attaccati, questo aver disobbedito alla fine, questo continuare i turni, anche se il padrone ti ha detto che i turni devono smettere, tu invece vai avanti, è quello che tutt'oggi oggi ha fatto sì che noi siamo qua e che possiamo dar vita a questo festival di letteratura working class. E però anche il festival di letteratura working class è qualcosa che ci permette di continuare a questo, in questo presidio. Come sapete, sono arrivate le lettere di licenziamento, sono partite il primo di aprile, il primo festival tra l'altro ci fu il primo di aprile, io osai scherzare, dissi con questo festival abbiamo fatto un pesce d'aprile ai padroni, no, i padroni ti dimostrano sempre, ahimè ad oggi, di avere sempre una marcia in più, il pesce d'aprile provano a farcelo loro mandandoci le lettere di licenziamento proprio all'inizio del mese. Discutevamo con l'ufficio stampa ieri, dicevamo beh, sono arrivate le lettere, stamattina prepariamoci perché sarà pieno di giornaliste e giornalisti di fronte alla fabbrica. E invece no, il nostro licenziamento, una storia di 1300 giorni, stamattina era, non ce l'ho con loro, è un esempio, una colonnina piccola piccola sul Corriere Fiorentino, piccola così, microscopica. Come si passa da un corteo di 40.000 persone contro licenziamenti il 18 settembre 2021 a una colonnina piccola, piccola così? È purtroppo una lezione del capitale, perché quando tu sei un corteo di 40.000 persone e pensi che in fondo hai vinto, perché già basterebbe quello, un collettivo di fabbrica che porta da solo 40.000 persone in piazza e che ha con sé tutta Firenze e che ha fatto un piano industriale, 1 milione di euro di azionariato popolare e che ha avuto le proprie bandiere in Sorgiamo per un periodo, tutte le bandiere ai balconi di Firenze, e dopo ha occupato Palazzo Vecchio eccetera eccetera, beh, come fai a ridurre questo a una colonnina piccola piccola così? È che loro dalla loro parte hanno il tempo, il logoramento, la consuetudine, e sono in grado di ribaltare ogni senso di narrazione, piano, anche lentamente, a volte con delle accelerazioni, a ribaltare così tanto il piano di narrazione che ieri una consigliera regionale, non ricordo se di Fratelli d'Italia o di qualche altro gruppo di destra, diceva, sfoggiando la più becera ignoranza sul proprio profilo Facebook, e lo dico qua perché se l'avessi detto su Facebook l'algoritmo le avrebbe portato troppa visibilità, bisogna sbloccare i licenziamenti, se no gli operai non possono accedere alla disoccupazione. Allora, prima di tutto, nessuno blocca i licenziamenti, tant'è che le lettere erano in viaggio, e secondo, di solito la politica deve bloccare i licenziamenti per non farti entrare in disoccupazione. Però questo è l'effetto che hanno prodotto con 15 mesi senza stipendio. E allora, se loro sono in grado, con questa potenza di fuoco che noi dobbiamo anche un po' ammirare, di invertire una narrazione in maniera così potente, da trasformarti da 40.000 persone in piazza a una colonnina piccola così, noi dobbiamo prendere atto che il presidio è quello che ci porta qui, ma il festival aiuta il presidio. E che chi ci dice che ci sono altri modi più classici di fare la lotta ce li mostri, perché in realtà oggi se si parla di questa fabbrica, se noi non siamo una colonnina piccola piccola così, è perché si tiene un festival di letteratura working class, che è la ricchezza di questa lotta e della ricchezza di questa fabbrica, e che ci dà autonomia nella narrazione, che ci fa sì che oggi noi siamo invece migliaia, perché nei prossimi giorni saremo migliaia e non una colonnina piccola piccola così. E poi spesso succede, quando fai le scelte giuste, che inveri e rendi più chiari i nessi sociali che invece normalmente non vedi. Per esempio, in questo momento io ho dritto per dritto la Venere biomeccanica, io nella mia ignoranza, poi non sono di queste parti, nemmeno la conoscevo finché non è stata resumata, che è un corpo che non so quanti rave avrà visto o comunque che viene da quel mondo, da quando la vita in maniera un po' scomposta, si può essere d'accordo o in disaccordo, si riappropria delle fabbriche che loro chiudono, loro lasciano abbandonate per poi lamentarsi anche se poi qualcuno finisce per farci dei rave all'interno. E guarda caso, il primo contatto che c'è stato con questo governo e questa fabbrica è stato il tentativo di utilizzare il famoso decreto contro i rave che questo governo fece perché il mondo andava verso la catastrofe climatica, la guerra, ma una delle più grosse potenze manifatturiere mondiali aveva un governo che dopo alcune ore del suo insediamento trovava necessario attaccare i rave, che come sapete sono i problemi che tutti noi abbiamo, no? Inciampiamo tutti i giorni nei rave. E invece in questo momento noi abbiamo un simbolo di quel mondo che guarda una fabbrica con un cartello scritto stop speculazione, che è un immobile reso vuoto da delle manovre che noi non conosciamo. E ancora una volta ci viene incontro e in aiuto il Sole 24 Ore, un po' come quando ci disse che se ci licenziavano la colpa di Greta Thunberg, e poi noi abbiamo portato Greta Thunberg su questo piazzale. Ecco, oggi il Sole 24 Ore, in un articolo tra l'altro nemmeno troppo ostile, dice: sì, certo, è difficile pensare a una soluzione positiva per GKN visto come... No, non è, quello è il drone, quello è un drone amico, è il drone della TV. Ci mancano i droni, ma... L'anno scorso era un continuo. No, ma questo è un festival che si rinnova continuamente, quindi quest'anno i droni del padrone non ci sono, però ci sono le lettere di licenziamento. Ogni anno c'è una novità. Dicevo... No, figurati, che il Sole 24 Ore diceva che è difficile pensare a una soluzione positiva per la GKN visto la palude che aleggia sulla fabbrica. Ma chi è che ha creato questa palude? La palude c'è perché una proprietà non risponde a domande semplici che un pezzo della politica, quella di maggioranza nazionale, non le fa. E la risposta è: ma come mai c'è qualcuno che oggi pensa di mettere 18 milioni di euro dentro la liquidazione dell'ex GKN, quindi investe nella distruzione dell'ex GKN, quando invece con 12 milioni di euro tu ripartiresti con un piano industriale di pannelli fotovoltaici e cargo bike? Com'è possibile? È una domanda semplice che evidentemente nessuno fa. Quest'anno il programma non è stato semplice di questo festival, non lo è mai, ma quest'anno non so come mai siamo andati un pochino più in difficoltà. In parte delle relatrici e dei relatori purtroppo non sono potuti essere con noi per banalmente per delle problematiche di natura personale, ma c'è stata una difficoltà. Le richieste che abbiamo ricevuto per comporre questo programma sono state molte di più. E purtroppo quando tu fai un programma come questo, dove devi saturare un giorno e mezzo, due giorni di fatto, parti mesi prima, e quando lo vuoi fare internazionale devi concentrare dentro un programma così piccolo mezza Europa o addirittura il mondo. E per cui io mi scuso, perché probabilmente tra di voi c'è qualcuno che ci ha contattato per dire: si potrebbe fare questo, si potrebbe presentare questo, io ho uno spettacolo, io ho una poesia, e non c'è spazio, non abbiamo spazio. Ecco, noi usiamo questa pressione per dire che un festival è poco, che noi vogliamo il polo della cultura working class, perché c'è troppo da raccontare, c'è troppa autonarrazione che non verrà rappresentata su questo palco e che non riusciremo a rappresentare noi nemmeno se facessimo 20 di questi festival prossimamente, perché c'è questa narrazione. E il problema è che questa autonarrazione vive attraverso le lotte. Quando noi diciamo che questo non è solo un festival per intrattenere, non diciamo semplicemente che non abbiamo sponsor, non abbiamo, che è tutto volontariato, anzi ne approfitto per ringraziare veramente le volontarie e i volontari che sono venuti qua, si faranno la tessera della SOMS per poter partecipare, hanno viaggiato a proprie spese, hanno ricevuto una bevuta in omaggio, è l'unica cosa che riusciamo ad offrire, hanno veramente dato tutto. Il rapporto tra volontari e volontari partecipanti è di 1 a 5 nei nostri calcoli, cioè vuol dire che qua nessuno viene qua solo o quasi solo per partecipare, ma c'è veramente una volontà di essere attivi. Però quando diciamo che il festival non è soltanto intrattenimento, non diciamo solo questo, perché di festival basati sul volontariato ce ne sono tanti. Diciamo che questo festival agisce attraverso la lotta. La lotta sono le corde vocali che esprimono i pensieri di questo festival. E voglio fare un esempio. Vabbè, gli appunti sono andati. Tra l'altro non c'è mai pace, cioè o c'è troppo sole, o c'è pioggia, o c'è vento, cioè proprio non c'è verso di avere un po' di pace in questa fabbrica. Quando abbiamo fatto l'iniziativa con Barbero, io ho esordito dicendo un'imprecisione che ci tengo a rettificare. Ho detto, parlando alla platea torinese, tra l'altro noi ereditiamo la storia della Fiat, quella alle spalle, e ci scusiamo perché il nostro stabilimento fu uno di quelli che non scioperò ai tempi della sconfitta dell'80, perché avevo questa convinzione. E del resto non è che qualcuno mi aveva mai spiegato la vera storia di questo stabilimento, e nessuno me l'avrebbe potuta spiegare se questo presidio e questa lotta non fosse in piedi. E quindi nei giorni successivi sono stato giustamente assalito da chi quella storia l'aveva fatta, che mi ha consegnato dei documenti che mi poteva consegnare solo se questa lotta fosse stata in piedi, presi dal suo archivio personale o dall'archivio che noi abbiamo qua, che abbiamo salvato insieme a tutta la fabbrica, anche la memoria storica. E mi arriva un documento dove dice che nell'80 qua si pensava di fare lo sciopero articolato, che era più efficace lo sciopero ad oltranza e permetteva di resistere più a lungo. È un lungo documento dove si formava una struttura fluida, un collettivo di fabbrica a suo modo, dove si provava a tenere insieme i cassa integrati e quelli che continuavano a lavorare all'interno, e tante altre cose interessanti in quel documento. La memoria, la narrazione, la poesia, la nostra vita agisce attraverso la lotta, e non c'è nessun'altra forma di trasmissione se non la lotta, nel caso della classe, perché noi non abbiamo a disposizione le strutture ufficiali di questa società. E quindi in realtà questo festival può continuare a vivere solo se la lotta sarà viva, e se questa lotta non rimarrà viva, il nostro impegno è di trasmetterlo ad altre lotte e continuare a portarlo avanti. Della pubblica utilità, del consorzio industriale, della necessità di lottare perché questo vuoto si è riempito da vita vera, ne parleremo domani e ne parleremo forse anche domenica in conclusione. In maniera un po' simbolica, il primo anno eravamo nella Tenso Struttura, il secondo anno eravamo sul piazzale, oggi siamo un pochino più ravvicinati e guardiamo in faccia alla fabbrica, su un palco costruito da noi in convergenza con i carpentieri del mondo teatrale, e che poi smonteremo e sarà a disposizione di tutte le lotte fiorentine che vorranno e avranno bisogno di un palco in maniera assolutamente simbolica. Quindi questo è il Festival di Letteratura Working Class. Scusateci per tutto ciò che non funzionerà in questi giorni, perché come al solito sarà tutto tremendamente improvvisato, e contemporaneamente tutto il risultato della lotta e della resistenza di questi 1000 giorni. Alle lettere di licenziamento noi disobbediamo. Il collettivo di fabbrica non ha mai chiesto il permesso per venire al mondo, e nessuno lo può abolire attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. Non siamo qui per intrattenervi, e nel programma abbiamo voluto inserire per ogni panel un collegamento con una lotta, con una vertenza o con un'urgenza che in questo momento ci sembrava di dover raccontare. Allora, la prima cosa che vi diciamo è che c'è una mostra dell'associazione Gaza Fuori Fuoco su Gaza, e adesso, se riusciamo, ci colleghiamo con Rita Baruda da Gaza, che si collega con noi, perché appunto il Festival di Letteratura parla di letteratura ma non chiude gli occhi sul genocidio che sta avvenendo in Palestina, nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Grazie. Secondo solo che stiamo facendo il collegamento, a proposito delle imperfezioni che diceva Dario. Okay, so So this is Rita Warud. I am a Palestinian journalist from Gaza, and I just want to say thank you for being here with you. I just want to say that the situation here in Gaza is worse than before, especially after this war coming back, because everything is getting worse and worse day by day. And I just want to say that people must keep talking about Gaza every day and every moment, because the Israeli occupation here in Gaza is making a lot of massacres. Just to say that I hope that Italian people don't stop talking about Gaza, because the situation here is so hard, and you know that the Israeli side block out the humanitarian aid since 1 month till now. And people here in Gaza are struggling because of food, and there is nothing can come to them, and no medical supplies. So the border here in Gaza must open now. E le persone a Gaza lottano per trovare il cibo, tutte le scorte mediche sono terminate e i confini dovrebbero venire aperti immediatamente per far lasciare passare gli aiuti umanitari. People must know that the Israeli occupation now is making a lot of violence against Gazan people, and le persone, le persone devono sapere che l'occupazione israeliana sta facendo quotidianamente violenza sulla popolazione di Gaza, e le persone devono continuare a parlarne. There is more than 1,200 murdered people in just 2 weeks. Sono morte centinaia di persone solo nelle ultime 2 settimane a causa dei bombardamenti. E questo è quello che volevo dirvi. Grazie. Grazie mille anche per questa testimonianza e collegamento da Gaza.